stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Benvenuti nel mondo che non c'è. Il difficile non è raggiungere qualcosa e liberarsi dalla condizione in cui si è. Margherit Duras. Un attimo di attenzione. Dobbiamo cambiare canzone. Un saluto a Maria di Macerata. Ditele o ditegli. Quella è tosta. Questa è, mo è difficile questa cosa. Che mi manca. Simo. Gigi D'Agostino, attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Anni e vorrei dedicare la canzone del sogno al mio fratellino di 2 anni, dato che i miei genitori, a distanza di 16 anni, mi hanno creato un bambino così bello e dolce. Gabriele mio, sei un bellissimo sogno da vivere. Tuo fratello Andrea. Il cammino di Gigi D'Agostino. La musica ben detta. C'è qualcosa di strano nell'aria, forse solo dentro me. Una cosa che col tempo varia, e non sta ad aspettare. So che il tempo è passato ed io ho vissuto sempre con te. Vedo in quel che ho provato. Oh.

6-6-2. Se riparte maestro col teatro e il burattino. Gigi D'Agostino. Il mio sguardo si stupisce, si inchina. Il mio cuore chiude tutti i suoi cancelli per meditare di nascosto sul miracolo. Sei tanto bella. García Lorca. Ci fermiamo a quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Sali in sella e suonata la campanella. D'Agostino, una grande famiglia danzante. Ci stiamo stimando che sta suonando Gigi D'Agostino? La nostra passion non si spegne, neanche con questo nuovo suono tamarro. Pum e Gio. Ciao Gigi, sabato ti aspetto al disco disco. Mettimi un lento violento, ma violento violento. Benissimo. Tommy da Imperia. Se per te è la prima volta, lasciati andare, lasciati andare. È la prima volta, è la prima volta, lasciati andare, lasciati andare. Se per te è la prima volta, lasciati andare, lasciati andare. Capito come? È la prima volta, lasciati andare. È la prima volta. Lasciati andare, lasciati andare, lasciati andare. Il tuo live di sabato è stato la mia prima volta, Alessandra. Capito come? Ovvio. Sono bastati 5 minuti ed abbiamo bucato la porta dei Quecocomeri, dei Martinesi. Forza Taranto, Fafa. Questo sabato 25 novembre 2006 Gigi D'Agostino vi aspetta in Liguria. Discoteca Disco Disco. Vado Ligure, Savona. Programa musical mental, ole, me gusta mucho macho, que cacho. Sono Graziella di San Benedetto del Tronto, ho 30 anni, ti ascolto e ballo tutte le sere facendo palestra. Se volete scrivermi, 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Penso che posso ballare con questo casino, mi posso esaltare al ritmo del lento violento, il cuore mi batte e vuole ballare. Accendo la radio a quell'ora perché c'è un maestro che voglio ascoltare. Il cammino è lento violento e con un messaggio da catturare. Dal ritmo più duro a quello più dolce io mi farò trasportare, perché quello che conta non è etichettare ma è solamente amare. Amare la musica di questo cammino che non segue mode come un cretino. Signore e signori, dirigermi Gigi D'Agostino. Ciao Gigi, sono Marco da Varese. Grazie per averci regalato un sabato indimenticabile come quello a Roncaccio. Ginnastica mentale, grazie. Ciao Gigi. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale.

Volevo dire a mio cugino, che purtroppo non può sentirmi, Diego, cerca di svegliarti presto. Ci manchi tanto. Non cedere e combatti. Gigi, mi affido al reparto pelle d'oca. Leo e gli amici di Ostra Vetere, Ancona. Ti amo. Sono per tutto. È tutto quello che so. Spettacolo, frate. Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca. Vigile del fuoco di Sassari. Ieri il mare ci ha portato via un collega. Dedico a lui una tua canzone per ricordarlo. Ciao Michele. Tutto il comando provinciale di Sassari. I wanna touch your body. Can you see that? I

l'amor toujours. Grazie dei bei viaggi che ci fai fare seguendo il tuo cammino. Fabrizio Di Migliuso. Il cammino di Gigi D'Agostino. Volevo dedicare l'amour toujours alla mia bimba Daniela. Ti amo, vita mia. Luigi da Mappano, Torino. I still believe in your eyes. There is no choice, I belong to your life. Because I live to love you someday. You'll be my baby and we'll fly away. And I'll fly with you. Fly oggi, 21 novembre 1987, nasceva Ilaria, l'unica ragazza che è riuscita a farmi capire cosa vuol dire amare. E proprio oggi le voglio dire che la amo ancora di più. In più, domani festeggiamo i nostri 7 mesi più belli e felici. Ico da Strambino. Ci sentiamo domani, grazie a tutti.